e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. E benvenuti a tutti da Deborah Rosciani, ben ritrovati a Cuore Denari. Questa mattina la trasmissione mi vede in conduzione da sola. Salutiamo naturalmente Nicoletta, che torna ovviamente lunedì. Detto questo, naturalmente abbiamo però all'ordine del giorno, come sempre, temi di cuore e temi di denari. Per quello che riguarda i denari, nella prima parte della trasmissione ci occuperemo di intanto un tema che ha occupato grande spazio nel nostro programma nei mesi passati e anche molta attenzione da parte dei diretti interessati, però insomma è stata complessivamente quella di cui parleremo un'operazione che ha avuto il successo parziale, non quello che ci si aspettava. Il bonus 18enni, appunto, è il bonus insegnanti. Molte difficoltà per ottenere questo riconoscimento da parte appunto del governo, soprattutto difficoltà legate al fatto che i diretti interessati dovevano elaborare la propria identità digitale. Ne parleremo questa mattina con il nostro amico Daniele Grassucci di scuola.net. Quindi, se volete, anche per la prima parte del programma 800 24 00 24, se siete tra coloro che hanno avuto difficoltà a fare richiesta di questi bonus e una volta in realtà ottenuti, se avete fatto anche difficoltà ad utilizzarli, perché anche quello è tutto un altro tema appunto interessante. E poi parleremo invece di recupero crediti, perché c'è una campagna lanciata dal Movimento Difesa del Cittadino che ha denunciato le autorità competenti, alcune aziende di recupero che vessano in realtà le persone in condizioni di difficoltà, quindi pratiche scorrette, mentre c'è un codice deontologico, ci sono regole di comportamento molto rigide da parte appunto delle società di recupero crediti. E questa mattina quindi sentiremo sia l'Associazione dei Consumatori che l'Unirec, l'associazione appunto di categoria, che è molto attenta a vigilare su quello che succede appunto sul mercato tra le persone che sono in difficoltà. Per quello che riguarda invece la parte di cuore, oggi è venerdì, torna, è l'ultimo venerdì del mese, quindi torneremo ad occuparci dell'altra metà del cielo, dei nostri ascoltatori. Torna infatti l'appuntamento con Salute Uomo, ma non è tutto, perché ieri la nostra Nicoletta ha raggiunto anche al telefono Walter Longo per parlare dei vantaggi sulla salute della dieta mima digiuno, della quale si parla tantissimo in questo periodo, per cui anche oggi tantissimi gli argomenti da commentare insieme a noi. All'800 24 00 24 intanto partiamo rapidamente con la nostra veloce rassegna stampa e la borsa di oggi. Molta volatilità, non solo in bocca a me, molta volatilità in borsa. Questa mattina abbiamo un ribasso generalizzato fra listini continentali. Anche ieri è stata una giornata incerta, la partenza stamattina era stata migliore soprattutto per Milano, che già navigava in territorio positivo nelle prime battute, poi ha bruciato tutto, adesso perde lo 0,63%, il FTSE MIB, anche Parigi in calo di oltre mezzo punto, Francoforte meno 0,33%, Londra meno 0,26%. Ieri Wall Street sul Dow Jones ha toccato il suo decimo record consecutivo. Abbiamo avuto invece il primo stop per il Nasdaq, l'indice tecnologico, dopo ben 15 sedute record di fila. C'è ancora attesa naturalmente per il piano di stimolo fiscale che lancerà l'amministrazione Trump e che sarebbe pronto entro l'estate. A Milano vediamo un po' i titoli su cui punta stamattina la comunità economico-finanziaria, la comunità appunto degli investitori. Leonardo Finmeccanica più 4 punti, il gruppo ha presentato ieri sera i dati del 2016 e il suo nuovo piano industriale al 2021, confermando di avere avuto appunto a fine anno un portafoglio ordini di circa 35 miliardi appunto di euro, e il titolo stamattina balza, come vi dicevo, di 4 punti. CNH Industrial più 1,84, Atlantia, la ex autostrade, più 0,8, Luxottica più 0,65%, mentre dall'altra parte della classifica troviamo, con cali che superano i 4 e 5 punti percentuali, il Banco BPM e Saipem, che peraltro è stata anche sospesa più volte in asta di volatilità. Buzzi Unicem meno 2,58, è toccata anche a Fiat questa mattina la sospensione perché è finita in asta di volatilità, adesso il titolo perde il 2,29%, oltre un punto e mezzo di calo per un bel gruppo di titoli, Mediobanca, Unicredit, che ha completato con successo l'aumento di capitale, Banca, Mediaset, Unipol e Generali. L'euro è a 1,0588, stamattina aveva riprovato a toccare 1,06 per poi ritracciare di nuovo, ma insomma siamo su valori di stabilità rispetto a ieri. Lasciamo i mercati e andiamo a fare il punto della situazione su, come vi dicevo prima, queste due iniziative che vi abbiamo raccontato nei mesi scorsi, due bonus che potremmo considerare speculari, che sono stati riservati a due categorie in particolare, quella dei professori e quella dei ragazzi, i diciottenni per essere precisi. 500 euro la cifra destinata loro da spendere, ma sarebbero in pochi ad aver colto l'occasione. In realtà stamattina abbiamo dati aggiornatissimi che ci danno qualche segnale invece, forse l'inversione di tendenza. Daniele Grassucci, cofondatore e responsabile comunicazione di scuola.net, un grande amico di Cuore e Denari. Daniele, buongiorno e ben ritrovato. Buongiorno, ben ritrovata. Allora, intanto velocissimamente il riepilogo delle due iniziative, poi faremo il punto su chi ne ha fruito di più, se gli studenti o gli insegnanti. Daniele. Beh sì, sono due iniziative, una destinata insomma a sostenere, ecco, i consumi culturali da parte dei diciottenni, l'altra invece a incentivare la formazione e l'aggiornamento professionale degli insegnanti. Questi due bonus vengono erogati attraverso delle piattaforme web che di fatto hanno due nomi diversi, una è la carta del docente e l'altra è 18 app, ma la tecnologia, il motore che c'è dietro è essenzialmente lo stesso, quindi anche un esempio insomma di sinergia che all'interno della pubblica amministrazione non si vedeva, ecco, da qualche tempo. Quindi entrambe le categorie, per poter utilizzare fisicamente poi questo bonus, devono appunto hanno la possibilità di scegliere o degli esercenti online oppure degli esercenti fisici sul territorio, e devono seguire tutta una procedura per appunto generare dei voucher che poi consentono l'acquisto dei beni o dei servizi che sono appunto compresi in questo bonus. Acquisto per esempio di biglietti per rappresentazioni teatrali, per andare al cinema, per visitare i musei, ma anche per frequentare corsi di formazione per quello che riguarda in particolar modo gli insegnanti. E proprio nei giorni scorsi, Daniele, in qualche giornale si era evidenziato come questi due bonus in realtà stessero vivendo una sorta di flop, perché non c'era stato molto riscontro, in particolar modo da chi? Da parte della platea dei diciottenni o degli insegnanti? Beh, i diciottenni in realtà al 31 gennaio avevano speso abbastanza poco rispetto a quella che era la dotazione totale, nel senso che la dotazione totale teorica, quindi se tutti i diciottenni si fossero iscritti, era di 290 milioni. I dati appunto a fine gennaio ci dicevano che meno della metà si era iscritto e la spesa generale era di circa 18 milioni, quindi il 5%. Ecco, però noi abbiamo ricevuto un aggiornamento recente, esatto, a metà febbraio, e i dati sono più confortanti, nel senso che gli iscritti sono saliti a più della metà degli aventi diritto, quindi circa 300.000, ma soprattutto è aumentata la spesa. In 15 giorni sono stati spesi 12 milioni di euro in più, quindi siamo arrivati ad un totale di 30 milioni, che sarebbe quindi il 10% della dotazione totale, ma il 20% della dotazione disponibile agli iscritti. Secondo te che cosa si deve questa accelerazione dell'ultima ora? Si deve al fatto che i ragazzi stanno cominciando a capire come usare questo bonus, soprattutto perché appunto inizialmente si sapeva che sarebbero terminate a breve le procedure di iscrizione, invece è recente la notizia che c'è stato un prolungamento fino a giugno, quindi in qualche modo il fatto di avere la possibilità di perdere questo bonus ha spinto molti ad iscriversi e a cominciare ad utilizzarlo. A non perdere l'occasione. No, ricordiamo anche, Daniele, che è confermato, come dicevamo, il bonus 18enni anche per chi compirà 18 anni quest'anno. Sì, anche se al momento non sono aperte le iscrizioni, quindi i ragazzi del 99 che vanno sul sito 18 app ancora non trovano menzione di questa possibilità, che però è stabilita per legge, quindi siamo in attesa dei regolamenti attuativi. E probabilmente la gamma dei servizi per loro disponibili sarà un pochino più ampia, mi sbaglio? Sì, assolutamente. Ecco, la normativa prevede infatti che si possa accedere ai corsi di formazione piuttosto che si possa acquistare la musica, perché oggi puoi andare a un concerto, però appunto non puoi acquistare magari un CD o DVD o la musica digitale, piuttosto che puoi acquistare dei libri, ma non puoi accedere ad un corso di formazione. E questo è un po' il paradosso, perché oggi ad esempio, e questo un po' forse è la struttura della piattaforma, ci sono ragazzi che correttamente effettuano dei consumi che possiamo definire culturali, però e altri invece che effettuano dei consumi che proprio non sono culturali, o comunque culturali però di tipo diciamo nella definizione classica un po' più bassa, perché c'è il concerto di Ligabue piuttosto che il concerto di NEC. Ecco, sicuramente è cultura popolare, quindi non possiamo dire che non sia cultura, però chiaramente magari forse rispetto alla mostra di Picasso, ecco, diciamo che c'è un po' di differenza. Si aspettava magari degli esiti diversi, oppure tra magari il libro di preparazione test d'ingresso e il libro di Cracco sulla cucina, ecco, magari libro perché girato, anche quello è stato comprato per la felicità assolutamente sì. Vabbè, quindi... ma se qualcuno fa l'istituto alberghiero, vuole imparare i segreti della cucina di un grande chef, perché no, Daniele? Assolutamente. Però ti posso garantire, insomma, che ecco, spesso ho fatto l'esempio di Cracco, ecco, ma ti posso parlare di tanti libri di narrativa, vabbè, ecco, popolare o comunque pop, che comunque sono stati acquistati. Quindi il senso è sicuramente un'iniziativa che ha messo in moto un certo tipo di voglia e di consumi, che appunto, per essere un sistema molto complesso da gestire, ha portato da parte di alcuni ad un corretto utilizzo nelle finalità della norma, da parte di altri, insomma, a cercare un po' delle cose, ecco, che proprio di così alto livello culturale, vabbè, non sono, però insomma, ecco, sta l'importante, Daniele, esattamente, intanto che questa opportunità non si perda e che i ragazzi non si scoraggino per la procedura complicata. Siete dei nativi digitali, datevi da fare, quindi fate la richiesta del bonus finché c'è, almeno utilizziamole questa opportunità. Daniele, grazie per essere stato con noi, ti auguro una buona giornata. Altrettanto. È tardissimo il traffico, a tra poco. Cuore e denari. Questa è la musica della nostra rassegna stampa, ma in realtà andiamo al nostro approfondimento di oggi. Allora, parliamo di tutte quelle persone che sono in una condizione di difficoltà, che vivono in una condizione di indebitamento. E già le persone indebitate vivono una condizione emotiva di particolare fragilità. Provate ad immaginare, se per vostra fortuna non vi siete mai trovati in questa situazione, cosa significhi non riuscire ad onorare i propri impegni finanziari fino a finire in una piccola bancarotta personale. Chi riesce a mantenere un po' di lucidità magari prova a mettere in campo qualche iniziativa di rientro graduale della propria situazione. Pensate ad esempio alla moratoria sui mutui, si va a parlare con il direttore di banca, ci sono appunto queste iniziative di sospensione, di allungamento del mutuo, quindi qualche cosa si può fare. C'è chi invece ha una situazione particolarmente problematica e magari oltre a mutuo e indietro con le bollette, con il prestito e con tanti altri impegni, e allora comincia ad essere contattato dalle società di recupero crediti, e non sempre questi sono dei buoni incontri. Anche qui ci sono però società e società. Ci sono quelle che operano con trasparenza, serietà, aiutando i debitori a costruire piani di rientro sostenibili. Ci sono però anche, purtroppo, passatemi il termine, il presidente che rappresenta queste aziende mi perdonerà, ci sono anche i farabutti. Proprio un'associazione dei consumatori, il Movimento Difesa del Cittadino, ha denunciato all'antitrust 8 società che, promettendo facili ma ingannevoli scappatoie, vanno a caccia di persone indebitate. La notizia è proprio di queste ore. Noi ne abbiamo voluto sapere subito qualcosa di più, ovviamente coinvolgendo anche, come vi dicevo poco fa, l'organizzazione che rappresenta le società di recupero crediti. Intanto saluto il presidente di Unirec, Marco Pasini. Presidente, buongiorno e grazie. Buongiorno a lei e buongiorno a tutti gli spettatori. Grazie. E grazie anche all'avvocato Francesco Luongo, presidente del Movimento Difesa del Cittadino. Presidente, eccoci qua di nuovo. Ormai lei è diventato un appuntamento fisso con noi ogni settimana. Grazie, Deborah. Buongiorno agli ascoltatori. Dai diamanti al recupero crediti, insomma, il suo raggio di competenze si amplia sempre di più. Noi siamo ben contenti, naturalmente, che vigiliate con così tanta attenzione su tutti gli aspetti problematici della vita delle persone. Naturalmente c'è il numero verde per intervenire in diretta, 800 24 00 24. Raccontateci se siete tra i malcapitati protagonisti di vicende come quelle di cui parliamo questa mattina, persone che, se siete appunto in difficoltà, in arretrato con la restituzione di qualche debito o con qualche bolletta, arriva la telefonata del recuperatore appunto del credito, e molto spesso sono telefonate anche un po' dure, a volte minatorie. Non devono agire così le società di recupero crediti, ci sono dei codici deontologici, c'è un codice stilato anche dall'autorità garante della privacy, adesso ci arriveremo. Avvocato Luongo, voglio partire con lei e dalla vostra denuncia. Come siete venuti a conoscenza dell'operato di queste 8 società? Nello specifico, cosa fanno, cosa facevano? Sono ancora operative? Semplicissimo, basta andare sui social network o semplicemente navigare un po' su internet, che vedremo aprirsi pop-up, banner, pubblicità di ogni genere che diffondono notizie legate a salvifici, se non miracolosi, piani di risoluzione dalle crisi di sovraindebitamento. Io sono vere e proprie agenzie che si dichiarano salvadebiti, è interessante una nuova definizione che si sta sviluppando soprattutto in rete, quella della cosiddetta escapologia fiscale. Si tratta prevalentemente di ciarlatani che senza alcuna qualifica sfruttano la drammatica situazione molto spesso delle famiglie sovraindebitate. Noi li abbiamo definiti cacciatori di debiti, ne abbiamo individuati 8, lo avevamo già accennato e comunicato all'antitrust che come Movimento Difesa del Cittadino avremmo intrapreso questa campagna, lo abbiamo fatto con questi primi 8 esposti. Si tratta di una situazione molto critica perché questi servizi spesso vengono spacciati per gratuiti, gratuiti non sono, e possono comportare per i debitori davvero la compromissione definitiva e l'impossibilità invece di utilizzare quegli strumenti che la legge prevede per debitarsi, certo, legalmente. E adesso ne parleremo perché c'è proprio la legge, la 3/2012, il piano del consumatore, una procedura trasparente, legale, che può permettere di salvarsi appunto dall'indebitamento con la garanzia di un provvedimento emesso dal giudice del tribunale di residenza. Adesso ci arriviamo, se non ce la facciamo in questa prima parte lo faremo nella seconda, però volevo subito far intervenire il presidente di Unirec, Marco Pasini. Abbiamo utilizzato, presidente, mi rendo conto, delle parole un po' forti, ma solamente per definire l'operato delle società che combattete anche voi. Abbiamo parlato di farabutti e ciarlatani, come diceva l'avvocato Luongo, ma so che anche voi siete a conoscenza di queste situazioni e quando si verificano appunto sulle ovviamente poi è facile per tutti fare di tutta l'erba un fascio, è difficile per una persona in difficoltà distinguere la società di recupero crediti corretta che ti chiama, che magari vuole seriamente aiutarti senza chiederti oneri a rientrare nella tua situazione, da quella che invece è veramente poco chiara nell'operato fino ad essere truffaldina. Presidente. Ma guardi, una volta tanto dico, mi fa piacere partecipare a questa trasmissione perché stiamo parlando di situazioni sicuramente non positive e che non riguardano noi, perché stiamo parlando di agenzie e debiti e pertanto ecco i richiami che faceva il Presidente Longo sono sicuramente riferiti a soggetti che operano con delle promesse mirabolanti riguardo alla possibilità poi di contenere la situazione debitoria del consumatore, del debitore, probabilmente con una esasperazione di queste possibilità che va ben oltre quello che effettivamente poi è ottenibile. Venendo al campo che invece riguarda il mondo del recupero crediti, ma guardi, che sicuramente noi non godiamo di una fama eccezionale, ma questo dipende anche un po' dal nostro lavoro che probabilmente non è il più simpatico che si possa riscontrare. Di fatto è vero che qualcuno questo lavoro lo deve ben fare, perché poi vorrei ricordare che il nostro è un lavoro che serve a tutelare i crediti delle imprese, serve a tutelare i posti di lavoro dei lavoratori delle imprese, quindi nel panorama dell'economia nazionale abbiamo avuto un riconoscimento anche da autorevoli studi delle più importanti università italiane di quanto poi noi contribuiamo effettivamente a difendere l'occupazione e il PIL del nostro paese, quindi questo è un dato che non vorrei che venisse ignorato. All'interno di un mondo che conta, io parlo ovviamente del mondo che riguarda Unirec, 200, più di 200 aziende associate, più di 20.000 lavoratori per circa l'80% del mercato, possiamo ritenere che all'interno di questo contesto le modalità con cui poi il lavoro viene svolto sono assolutamente regolamentate e regimentate. Esatto, allora Presidente, guardi, noi tra un po' dobbiamo andare in pausa perché c'è il giornale radio, quello che ci interessa dare poi è il vademecum, le istruzioni per l'uso ai nostri ascoltatori che si trovano in difficoltà per capire subito se la telefonata che riceve la riceve da un operatore serio che opera secondo il vostro codice deontologico, ma anche secondo il vademecum del garante della privacy, che naturalmente deve che disciplina in maniera molto seria anche le modalità per esempio con cui avviene il primo contatto con la persona che è in questa condizione appunto di fragilità e quant'altro, per cui ne parliamo appunto nella seconda parte della trasmissione. Chiederemo poi ulteriore aiuto all'avvocato Luongo proprio per spiegarci come funziona invece il piano del consumatore. 800 24 00 24 è il numero verde per i vostri interventi in diretta. diretta. Su tutto questo torniamo dopo il giornale radio. Benvenuto nella tua auto. Sono la Digital Radio. Ormai dovresti sapere che abito qui. Sono in quasi tutte le auto. Con il sistema DAB Plus posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto. Basta provare. La radio è già avanti, non restare indietro. Scopri subito la magia della Digital Radio. Forse è già nella tua auto. Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Dibidi dobidi DAB! Anche Radio 24 è in Digital Radio. Cuore e denari. Eccoci ritrovati in diretta. Allora, noi oggi parliamo di persone che sono in difficoltà nel ripagare i propri debiti. Perché ne parliamo? Perché il Movimento Difesa del Cittadino proprio ieri ha reso nota questa notizia di aver denunciato all'antitrust 8 società che promettono facili scappatoie per uscire da una situazione appunto pesantemente debitoria, quindi vanno a caccia di persone indebitate e però non sono appunto società naturalmente serie proprio per il modo che hanno di operare. Il Movimento Difesa del Cittadino, come vi dicevo, ha segnalato tutto questo all'antitrust, che ha già sanzionato spesso comportamenti scorretti da parte di appunto società. Noi questa mattina abbiamo interpellato sia il Movimento Difesa del Cittadino, che ci ha ricostruito un po' questa storia e le motivazioni per cui sono tornati a dare battaglia a questo mondo, almeno a quella parte che ovviamente non opera secondo i criteri stabiliti per legge, ma anche secondo i criteri deontologici appunto delle categorie. Abbiamo intervistato e abbiamo interpellato anche Marco Pasini, presidente di Unire, che è l'unione appunto delle società di recupero crediti. Non vi sto a dire quante telefonate stanno arrivando all'800 24 00 24. Allora direi di dare prima del passaggio appunto a Salute Uomo il microfono ad un paio di ascoltatori che poi commenteremo con Pasini e Luongo. Guido da Viterbo, buongiorno, benvenuto. Buongiorno Deborah. Ci dica. Allora, niente, io praticamente pago il condominio mensilmente con la banca direttamente, poi ogni fine anno ci sono sempre delle spese extra. Mi arriva una lettera praticamente dell'avvocato di recupero crediti e mi dice che io devo pagare come arretrato 700 euro. Io gli dico: guardi, 700 euro momentaneamente non ce l'ho, però in breve tempo praticamente salderò il tutto. L'avvocato mi dice che se in tutti e tre giorni praticamente io non pago le 700 euro diventerò 900. Va bene, io accumulo tutte le 900 euro e inizio a pagare in tre rate. Dopo le prime due rate mi arriva un'ingiunzione totale, quindi senza considerare le rate, e alla fine praticamente dell'ultima rata, quindi il tutto diciamo nell'arco di 40 giorni, mi arriva un pignoramento nell'azienda dove lavoro totale, cioè praticamente di tutta la cifra da pagare più le spese. Ma mi scusi, il recupero quindi crediti era stato attivato dall'amministratore di condominio, sì, perché sì, esatto. Ma lei era già stato tra virgolette moroso anche in altre situazioni in passato, in altre circostanze? Allora, in altre circostanze sì, però ho sempre pagato tutto. Certo. Insomma. Guido, la fermo un attimo. Allora, Pasini, volevo chiederle intanto, ovviamente le società di recupero crediti che sono iscritte alla vostra categoria non è che vanno a recuperare ogni tipo, no, di credito, perché per esempio per il fisco c'è Equitalia, per quello che riguarda la situazione bancaria loro hanno. Vabbè, voi intervenite anche lì. Detto ciò, per esempio, in quale campo siete particolarmente specializzati, nell'ambito condominiale oppure intervengono le vostre società? Guardi, le nostre società intervengono a 360 gradi, quindi lavorano per tutti gli ambiti laddove ci siano dei crediti identificati, riconosciuti, certificati, comprese anche le pubbliche amministrazioni, aggiungo, quindi le pubbliche amministrazioni possono tranquillamente utilizzare e utilizzano i servizi di recupero crediti extragiudiziali. Io mi ricollego alla telefonata dell'ascoltatore, mi perdoni, ma un assist favoloso per me, in quanto il signore è stato sottoposto a un'attività di recupero giudiziale. Ecco. Quindi questo serve a dimostrare che l'attività di recupero extragiudiziale, quindi negoziale, che non prevede l'attivazione di procedure, praticamente non lo avrebbe portato in questa condizione. Cioè l'attività che mediamente le nostre aziende svolgono avrebbe consentito di trovare una soluzione, vuol dire con una rateizzazione che in qualche modo, se non fosse stata rispettata, qui probabilmente era in una situazione di pignoramento, quindi una era in ballo una situazione un po' più problematica che Guido evidentemente avrà ritenuto opportuno non raccontare. Però lei ha fatto una distinzione, giustamente, presidente Pasini, tra attività giudiziale ed extragiudiziale. C'è una domanda pratica che ci chiede Fiammetta dalla provincia di Parma, che vuol proprio sapere fino a che punto una Fiammetta, una società di recupero, si può spingere nella, e questo è un tema, il tema forse più delicato di questa mattina, quando diventano proprio nell'atteggiamento minacciosi. Adesso la faccio sentire, presidente Fiammetta. Buongiorno, dunque la mia domanda è questa: una banca cede a una società di recupero crediti una pratica che intende chiusa per sé e fa recuperare il credito alla società. Però il cliente ha nei confronti della banca una causa, un'avvertenza aperta per interessi usurai. A questo punto la ditta che recupera credito si fa sentire e esige in modo secondo me non consentito il recupero crediti. Perché lei ritiene che non era consentito? Dovrebbe essere un'azione giudiziaria. È possibile? In che modo? E fino a che punto la banca può cedere un credito in presenza di una causa già intentata da parte sua, Fiammetta, per la... Non da parte mia, sto assumendo un'informazione per una persona che conosco, che viene contattata direttamente dalla società di recupero crediti, secondo me in modo non consentito. Non consentito, grazie Fiammetta. Beh, allora noi intanto, avvocato Longo, faccio intervenire lei, abbiamo il legale questa mattina a nostra disposizione, perché no? Detto che ogni situazione noi la commentiamo e giudichiamo sulla base di queste poche informazioni che abbiamo al telefono, poi magari andando a controllare le pratiche ci potrebbero anche essere degli aspetti che necessiterebbero appunto di approfondimenti maggiori. Detto questo, avvocato, poi sento di nuovo anche Pasini. Guardi, molto semplicemente, in tutte le procedure giudiziarie in cui una parte chieda soldi all'altra, se il giudice sospende l'esecuzione o l'esecutività o sospende le procedure monitorie con un provvedimento specifico, il creditore non ha diritto di procedere. Nel momento in cui manca questo provvedimento del giudice, il creditore può cedere e incaricare tranquillamente chi vuole per il recupero. Sarà cura del debitore poi opporsi e chiedere al giudice, in caso di procedure giudiziarie, la sospensione. In questo caso, in mancanza del provvedimento, molto probabilmente la banca è andata avanti con la società di recupero crediti. Infatti. Presidente Pasini, vengo a lei. Magari ricordiamo anche che cosa stabilisce il vostro codice deontologico di comportamento, cosa dice il vademecum del garante della privacy, che individua tutte quelle modalità che vengono definite invasive di ricerca, presa di contatto, sollecitazione appunto della persona in difficoltà. Per esempio, la società di recupero crediti credo non possa visitare a domicilio la persona che deve restituire qualcosa, non può visitarla, non può andare a prendere contatto sul luogo di lavoro, no? Ci sono delle regole molto rigide. Molto volentieri, anzi la ringrazio per l'occasione, però vorrei ritornare per puntualità un attimino sulla domanda anche dell'ultima ascoltatrice. Certo. Le società di recupero crediti mediamente non acquistano il credito, quindi questa è la prima distinzione che vorrei fare, perché è un pregiudizio abbastanza comune, dove praticamente l'attività di acquisto crediti viene fatta da soggetti che hanno delle caratteristiche ben diverse rispetto alle società. Sono le famose cartolarizzazioni a volte, perfetto, no? Che sì, non c'entra. Allora, ammettendo che Fiammetta abbia utilizzato, presidente, un termine errato, la banca ha solamente per fare chiarezza, certo. Per fare chiarezza. Venendo al tema del codice di condotta. Allora, partiamo dal presupposto che il codice che lei ha richiamato del garante privacy più volte è assolutamente integrato nel codice di condotta Unirec Forum Consumatori. Esatto. Ed è un codice che può essere trovato sul sito dell'associazione www.unirec.it, scaricabile da chiunque, dove sono previste tutte le modalità le buone prassi sulle modalità di esecuzione di un servizio di recupero crediti, fra cui gli orari a cui possono essere fatte le telefonate, la frequenza delle telefonate, i famosi contatti domiciliari. Attenzione, in Italia l'attività di recupero domiciliare è assolutamente legittima e viene garantita, voglio dire, dal controllo del Ministero dell'Interno, a quale vengono consegnate tutte le liste anche degli agenti domiciliari che svolgono questa delicata attività. Però si deve prendere, immagino, un appuntamento con la persona interessata, non si può piombare in casa in ogni momento. Le modalità sono diverse, diciamo, a seconda delle condizioni che si possono realizzare. Generalmente, vuol dire, c'è una presa di appuntamento, ma per un fatto anche ovvio, voglio dire, di non, diciamo, di non andare a vuoto, ecco, a bussare delle porte. Poi comunque diciamo che il tema dei contatti domiciliari è sicuramente ormai stato abbondantemente superato dalle attività telefoniche che hanno preso, diciamo, sono prevalenti ormai nelle attività di recupero crediti. Venendo a queste nello specifico, sicuramente il modo ed il modus operandi che i nostri operatori devono mettere in atto deve essere assolutamente ispirato a dei principi di professionalità, di educazione e di cortesia. Presidente, purtroppo io devo fra un po' chiudere questa parte del programma, però dalle telefonate che vedo è necessario ritornarci. Le chiedo come ultima come ultimo contributo da rilasciare a chi ci sta ascoltando e che sta ascoltando in questo momento proprio per la condizione in cui si trova, con particolare interesse, visto che c'è ancora qualche scheggia impazzita che riesce a farla franca e riesce a far cadere in qualche trappola punti disperati, ci dia le due regole per poterli riconoscere, per magari, se necessario, andarli anche a denunciare. Guardi, assolutamente i comportamenti devono essere ispirati a quello che il codice di condotta prevede e che il codice di condotta che è stato condiviso con le principali authority nazionali, quindi il garante privacy, l'antitrust e quant'altri. Nella misura in cui qualche operatore dovesse svolgere questa attività in modalità addirittura fuori legge, questa è una cosa verificabile anche presso le competenti questure che hanno, ovviamente sono loro che autorizzano le agenzie di recupero crediti a operare sul territorio. Se ci fossero delle segnalazioni di particolare gravità, anche la nostra associazione è assolutamente a disposizione, non fosse altro che noi abbiamo veramente, diciamo, il dovere morale anche di mettere nell'angolo, vuol dire, chi opera con delle modalità che non sono proprie. Il nostro rapporto con le associazioni dei consumatori, che è consolidato e che ha generato questo codice di condotta, dico, è assolutamente, diciamo, alla ricerca proprio della identificazione delle buone prassi e soprattutto affinché queste buone prassi vengano applicate, perché il recupero extragiudiziale è una modalità di affrontare un problema che una persona ha grave, importante, con una modalità negoziale che dal nostro punto grazie. Di vista rende anche più onore alla persona. Grazie Presidente Pasini, ci risentiremo presto senz'altro. Presidente di Unirec, l'Unione delle Imprese di Recupero Crediti, Francesco Luongo, Presidente del Movimento Difesa del Cittadino. Detto questo, è tempo di cambiare argomento e per farlo naturalmente noi abbiamo la sorpresona. Eccomi! È una giornata speciale. È una giornata speciale, ce l'ho fatta, sono tornata da voi. Perché, Vabbè, non potevi. Allora, comunque sono molto contenta. Sono contenta di essere con voi. Contenta che qua in studio con noi sia tornato Andrea Salonia, urologo, andrologo presso il Dipartimento di Urologia all'Università Vita Salute del San Raffaele di Milano, nostro direttore scientifico del progetto Salute Uomo, che Buongiorno. Torna puntualmente ogni ultimo venerdì del mese. Esatto. Voilà. Eccoci qua. Allora, Andrea, e per fortuna, perché abbiamo sentito e commentato la notizia, lo studio pubblicato su Lancet sull'aumento dell'aspettativa di vita nelle donne coreane, un dato che ha suscitato molto interesse, è stato ripreso, commentato da epidemiologi, ricercatori, medici. Ma se le donne vivono di più, e adesso abbiamo capito perché, Andrea, perché gli uomini continuano a vivere di meno? Insomma, muoiono prima. Immagino che la medicina questa domanda se la sia posta e se come? La stia ponendo. Ecco, allora, intanto chiedo a te una spiegazione, ma giro anche questa domanda ai nostri amici uomini, ma anche naturalmente alle donne. Secondo voi, amiche, perché gli uomini vivono di meno? Sbizzarritevi anche con ipotesi un po' surreali, perché il medico, il rigore ce l'abbiamo in studio. 800 24 00 24, anche a voi la parola. Andrea. Ma di base partiamo dalla considerazione che lo studio di Lancet a cui abbiamo fatto riferimento poco fa, in realtà non specifica solo che le donne coreane vivano di più. Il rapporto che viene sottolineato è che in realtà a distanza di tot numero di anni esiste una probabilità di morte per malattie in generale dell'1% delle donne coreane rispetto al 42% degli uomini della Cecoslovacchia, se si può dire ancora. Sì. Di base questo dipende apparentemente da più di una componente. La prima è una componente che noi chiamiamo genotipica, cioè legata a ciò che la mamma e il papà ci hanno portato in dote con l'eredità e quindi difficilmente cambiabile. L'altro è un aspetto di tipo epigenetico in cui vengono annoverati tutti quegli elementi, se vogliamo dire in modo complessivo ambientali, che sono capaci di modificare quanto in sorte ci sia stato dato. Di base esiste una differenza enorme in questo senso tra i maschietti e le femminucce e questo è darwinianamente associato da alcune delle teorie al fatto che in teoria appunto i maschi abbiano quella loro mascolinità, quella loro virilizzazione, quella loro propensione all'aggressività, alla difesa che in qualche modo va a discapito di un certo altro numero di geni. Ovviamente questa è una teoria, una delle tante teorie. Quello che è certo è che esiste una predisposizione allo sviluppo di cardiovascolopatie, di dismetabolismi, che si associa a comportamenti, a stili di vita che sono più propri dei maschi di quanto non lo siano delle femmine. Tanto si è parlato del vituperato fumo di sigaretta, ahimè ancora fattore di rischio importantissimo, ma se solo voi pensaste anche all'abitudine all'alcol piuttosto che alla sedentarietà, purtroppo ahimè tutto questo fa parte della congerie di malpractice che sono tipici degli uomini e molto meno delle donne. Andrea, a proposito di uomini, di donne, di longevità, c'è una buona notizia che ha a che fare con un problema di salute molto serio che interessa milioni di persone nel mondo. Parlo del diabete, che viene considerato la pandemia del nostro secolo, una malattia che, lo sappiamo bene, oltre a ridurre l'aspettativa di vita, ne peggiora la qualità perché espone la persona con diabete a delle complicanze molto serie. Bene, dal laboratorio del gruppo del dottor Walter Longo, che noi conosciamo bene perché è venuto più volte a trovarci, direi anche in tempi non sospetti, qua a Cuore Denari, che lavora all'Università di Los Angeles e all'IFOM di Milano, e ormai noto come l'ideatore della dieta mima digiuno, potrebbe arrivare una soluzione. Allora, ieri l'ho raggiunta al telefono perché per fuso orario ci ama, ma non a sufficienza per essere alzarsi qua al volo, nel cuore della notte. Sentiamo che cosa ci ha raccontato. Buongiorno dottor Longo, intanto complimenti. Questo studio appena pubblicato su Cell è l'ultimo di una serie di ricerche che dimostrano i promettenti vantaggi sulla salute della dieta mima digiuno, che in questo caso si è dimostrata capace di riprogrammare le cellule che non producono insulina in cellule che invece producono insulina. Ma prima di entrare nel merito dello studio, ci vuole raccontare rapidamente le caratteristiche di questo tipo di dieta? Sì, questa dieta ha delle caratteristiche che sono abbastanza complesse, però in generale è una dieta che a bassi livelli, è vegana, quindi basata solo su vegetali, a bassi livelli di proteine, alti livelli di grassi e bassi livelli di zuccheri, e dura 5 giorni e più o meno tra le 800 e le 1100 calorie al giorno per quei 5 giorni. Dottor Longo, allora, cicli di questa dieta che mima il digiuno sono in grado di promuovere la crescita di nuove cellule che producono insulina e in questo modo riducono i sintomi del diabete di tipo 1 e di tipo 2. Gli sviluppi di questo studio hanno, come possiamo immaginare, una portata enorme perché potrebbero condurre in futuro a una cura del diabete di tipo non farmacologico, ma solo attraverso questa particolare alimentazione. La settimana scorsa abbiamo fatto uno studio clinico con la dieta mima digiuno, abbiamo pubblicato dove facciamo vedere che per i prediabetici 3 cicli di mima digiuno funzionavano già per abbassare il livello di zuccheri nel sangue a digiuno, e quindi questo è molto promettente perché praticamente li portava dallo stato prediabetico a quello normale. E in questo studio invece fatto su topi e cellule umane facciamo vedere la cosa più difficile, diciamo il traguardo più difficile, che è quello di rigenerare le cellule del pancreas, cioè riprogrammarle da cellule che non producono insulina a cellule che producono insulina, e questo ha funzionato estremamente bene nei topi, ha funzionato anche bene nelle cellule umane, incluse cellule di pazienti con diabete tipo 1, adesso ovviamente da fare, da testare clinicamente con pazienti che hanno già il diabete sia tipo 1, tipo 2 avanzato, dove c'è deficienza di insulina, sia tipo 1, e già stiamo per partire a breve con l'Università di Leiden, e adesso stiamo anche discutendo con col governo americano, il National Institute of Health, e quindi speriamo di portare avanti uno studio multicentrico su diabete tipo 2 e tipo 1. Dottor Longo, io sono certa che di questo studio ne sentiremo parlare molto nei prossimi giorni. Allora desidero che lei si rivolga alle persone che hanno il diabete e che potrebbero quindi beneficiare in un prossimo futuro dei risultati del suo lavoro, ma che potrebbero essere tentate nel frattempo a fare da sé. Diciamo che per i diabetici, pur essendo molto, molto, potenzialmente molto potente, molto promettente e anche molto pericolosa, più che per gli altri, soprattutto per i diabetici o di tipo 1 che usano insulina o di tipo 2 che usano insulina o altri farmaci, incluso la metformina tra l'altro. Quindi è una cosa che va gestita non solo da un endocrinologo o da un diabetologo, quindi un esperto di diabete, ma da qualcuno che ne sa tanto di anche digiuno terapeutico, prima di essere tentata, e va secondo me è fatto solo per chi veramente non può aspettare gli esiti dello studio clinico, quindi pochissime persone sono in questa situazione, però chi per qualche ragione non può aspettare ed il medico è d'accordo, allora si può considerare questa cosa, ma di nuovo molto pericolosa, soprattutto in abbinamento con qualsiasi farmaco associato al diabete. Allora, Andrea, vorrei subito un commento fresco fresco a questo studio di Walter Longo, del gruppo di Walter Longo, che promette di trasformare, di dare un cambiamento radicale, se tutto procederà nei tempi e nei modi, al trattamento del diabete. Quindi una buona notizia delle persone con diabete, ma l'ha sottolineato bene, vietato al momento il fai da te. Ci sono due elementi, secondo me, da sottolineare particolarmente rilevanti. Il primo, Walter Longo è direttore dell'Istituto di studi dedicati alla longevità dell'Università del Sud della California negli Stati Uniti, e di base quello sul diabete è uno dei suoi filoni di ricerca, ma va perfettamente a fare il paio con quanto dicessi prima, cioè ha studiato chiaramente come oltre alla genetica delle cose, l'epigenetica, cioè tutto ciò che viene oltre, che è potenzialmente ambientale, abbia un impatto capace addirittura di modificare il comportamento di ciò che geneticamente andrebbe in una direzione, portandolo in una direzione più corretta. Lui ha fatto l'esempio delle cellule che rigeneratesi saranno capaci di produrre insulina. Questo è straordinario, ma se voi pensate che proprio legato al dismetabolismo esiste, cioè, uno parola, cioè, che dice tutto ciò che va al di là di un corretto metabolismo, corretto controllo degli zuccheri, corretto controllo dei grassi, corretto equilibrio di zuccheri e grassi all'interno del nostro organismo, bene, in questo senso riuscire a riprogrammare senza andare a modificare la genetica delle persone è straordinario. Certo è che lui l'ha ben sottolineato, e questo è solo uno dei tanti lavori che il gruppo di Longo ha pubblicato in questa direzione. Non si può fare da sé, per il motivo banale che i rischi legati ad una dieta scorretta e ad una scorretta alimentazione sono incredibili. Se voi pensate che di tutte le forme di dieta, e l'abbiamo detto 100 volte, ahimè, anche con una sovrabbondanza di informazioni durante il periodo dell'Expo, la dieta mediterranea è la più equilibrata e è molto lontana dalla dieta mima digiuno, ma di base una dieta mediterranea corretta è una dieta salvavita, il che vuol dire da un punto di vista pratico che anche in questo caso, quello che si dice fare un po' un'attività sartoriale, a ciascuno il suo. È certo vero che se voi ancora una volta pensate che non è solo degli anziani lo sviluppo del diabete, lui fa riferimento al diabete di tipo 1, per il quale esiste una predisposizione genetica importante, una eredofamiliarità e soprattutto uno sviluppo nei soggetti giovani, questo diventa motivo di implementazione del concetto di longevità, che è straordinario. L'ultimo esempio, c'è uno studio molto bello pubblicato in cui si dice che le oltre centenarie maschi e femmine in Grecia sono in un rapporto di 1 a 1,68, cioè ancora una volta a quel livello le donne ci sopravanza. E questo l'abbiamo detto tante volte, ma quello che tende a ridursi proprio con l'andare dell'età è legato al fatto che un'alimentazione corretta possa ridurre questa discrepanza, che secondo me è fantastico. Allora, Debora... È tempo, abbiamo sforato un po', ma mercati e poi di nuovo Salute Uomo con Andrea Salone. A tra poco. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta... Cuore e denari. Siamo tornati insieme. Allora, le donne vivono di più. Perché gli uomini vivono di meno? 800 24 00 24. Si accettano anche ipotesi, anche un po' bizzarre. Ce ne sono. Allora, le donne vivono di più perché non hanno la moglie. Questo qua, dai, è un po' banale. Vedi come ridono. Ma poi in un sacco, guarda, hanno scritto la stessa cosa, vabbè. Allora, noi maschi viviamo meno perché tocca sopportarvi. Si scherza, naturalmente, certo. Ci dice Cristiano da Bergamo. Gli uomini vivono di meno perché in tarda età hanno meno impegni, cucinare, spese e meno rapporti affettivi. Non riesco poi a leggere altro, ma questo già mi piace di più. Questo peraltro in parte no, anche sposa... gli altri due mi piacciono. Mi piacerebbe mandare un libro a ciascuno di voi che... un po' sessisti, vedi, troppe S per me. Comunque è un po' di tempo che la nostra vita si sta allungando, con un bonus per noi donne che viviamo in media, Andrea, 6-7 anni più di voi. Sì, no? È corretto. Peraltro il concetto prima della coppia e del fatto di stare in coppia dimostra come anche negli uomini i soggetti che non hanno una persona vicino, sono single, vivono di meno di quanto non siano gli altri. Per cui il rapporto di coppia ha comunque un'importanza rilevante non solo dal punto di vista psicologico, ma anche dal punto di vista biologico, perché poi siamo fatti della stessa cosa. Allora, Daniele ci scrive, ma mi piace ogni tanto... Ah, il dialetto, dai. Sì, vai. No, vai tu, perché... Allora, io in dialetto, anzi, chiediamo a Daniele di chiamarci all'800 24 00 24, intanto io vi do la traduzione italiana che gentilmente Daniele ci ha dato. Le donne nascono sane, vivono malate, ma non muoiono mai. Però ci dice siete fantastiche, è vero, siamo un po' delle pianine ogni tanto, ma solo ogni tanto. Ogni comunque tanto. Allora, viviamo di più, ma c'è sempre anche l'altro lato della medaglia. Vivendo di più incontriamo lungo la nostra vita malattie che prima incontravamo più di rado. Ci sono infatti delle malattie che colpiscono di più proprio in ragione di questo allungamento della vita media. Tra queste, quelle che temiamo maggiormente sono le malattie neurodegenerative, che fanno, come molte altre patologie, differenze di genere. Sulle pagine di Salute Uomo potete leggere la lettera di Luigi, che scrive, c'è un piccolo titolino, andate a leggere, mi muovo e tremo, scrivo a voi per meglio capire. Mi muovo e tremo, ecco, questa è la parola che sì, è la parola che suona, chiave. Ecco. E allora noi abbiamo chiamato in linea con noi la dottoressa Maria Antonietta Volontè, responsabile dell'unità di disturbi del movimento al Dipartimento Neurologico all'Ospedale San Raffaele di Milano. Buongiorno dottoressa Volontè, grazie per essere con noi. Buongiorno a tutti voi. Intanto è una collega di Andrea, sì. Quindi siamo bellissima, simpatica collega. Allora, siamo molto amici. Dottoressa Volontè, quando abbiamo letto tremo, ecco, ci siamo subito, no, abbiamo subito rizzato le antennucce, perché il tremore è un segnale che generalmente ci fa paura perché rimanda subito al Parkinson. Allora, ci aiuti un po' a capire quali sono le variabili che fanno la differenza? Sicuramente il paziente, la persona che trema, si rivolge al neurologo. Non la sentiamo proprio per niente bene. Le mettiamo, allora tagliamo la telefonata, la richiamiamo e intanto andiamo a sentire Leonardo dalla provincia di Brescia. Leonardo, buongiorno. Buongiorno. Eccola lì. Com'è? C'è una possibile spiegazione di tipo genetico. Sì. In quanto, come sappiamo, la differenza genetica tra uomo e la donna è sui cromosomi sessuali. Sono appunto XX per la donna, XY per l'uomo. Quindi l'uomo si trova ad avere un pezzo in meno di genoma, manca una porzione. Su questa porzione potrebbero esserci dei geni che appunto funzionali per l'organismo, e appunto dato che sull'uomo ne manca, ha solo una coppia e non due come la donna, potrebbero esserci dei geni o recessivi o alterati, certo, del DNA alterato, che potrebbe portare a degli errori. Secondo me Leonardo è un genio. È un medico mancato, un genetista mancato, poi il nome, uno scienziato. Il libro arriva. Leonardo, lei è un genio. Secondo me è un genio, Leonardo. Andrea. È una bella idea. In realtà ci sono anche in questo senso delle teorie che hanno sviluppato questo concetto. Bravo, comunque, sì, il libro arriva. Idea, è una bella idea. In realtà sul cromosoma Y ci sono dei geni che mancano alle femminucce e che hanno una particolare, diciamo, predisposizione a farci fare cose che voi non potete fare, anche banalmente solo produrre delle cellule germinali che sono diverse, sì, dalle vostre, certo, con una vita, no, differente. No, perché poi quant'altro. Qua parte la gara, poi dicono che sono femministe, eccetera. Mi trattengo. Ma faccio fatica. Molta fatica. Dottoressa Volonté, ritornata con noi. Eccola qua. Mi sentite meglio? Molto bene. Allora, tremore. Tremore, sì, dicevo che la paura principale della persona che comunque avverte questo tremore è quella di che sia il primo sintomo della malattia di Parkinson. Direi che prima di arrivare comunque a questa considerazione finale, meglio farsi vedere, assolutamente farsi valutare da una persona esperta, perché soprattutto così dopo i 60 anni tremore assolutamente non equivale necessariamente a malattia di Parkinson, può essere semplicemente una predisposizione legata a una determinata appartenere a una determinata famiglia in cui il tremore è particolarmente evidente e frequente, può essere legato all'assunzione di farmaci, sempre di stare attenti all'assunzione farmacologica, molti farmaci anche semplici, cardiologici eccetera, possono dare tremore, o comunque a qualche piccola forma di insufficienza circolatoria cerebrale vascolare, che quindi non vuol dire una malattia progressiva come la malattia di Parkinson. Ma c'è un'indicazione, ad esempio, conta al momento in cui si manifesta, si è a riposo, oppure sì, certo, no, se viene dopo uno sforzo. È per quello che è importante fare la valutazione con un neurologo esperto della malattia, proprio perché la condizione in cui si realizza il tremore tipicamente se si realizza a riposo mentre si sta chiacchierando, si sta guardando la televisione, oppure in una condizione anche emotiva particolarmente intensa, ecco che compare il tremore. Se il tremore invece si manifesta mentre sto cucendo, facendo anche un lavoro fine, all'opposto è un tremore di quelli che noi riteniamo benigni e quindi non evolverà verso la malattia conclamata. Le faccio un esempio molto comune: la tazzina del caffè, andiamo al bar, sì, prendiamo, certo, il caffè, tante volte in alcune volte, sì, ci sembra un po', no, di muovere, che la tazzina, certo, si muova, ecco. Direi che questa è una forma di tremore benigno, molto spesso è legata alla stanchezza, all'emotività o all'aver bevuto proprio troppi caffè. Colpisce, no, Andrea voleva dire qualcosa. No, perché lui è un po', è il nostro uomo, dottoressa Volonté. Lo so. Noi abbiamo, è un po', no, il nostro preferito. Parla, Andrea. No, volevo chiedere a Maria Antonietta perché si sviluppa più facilmente in un uomo di quanto non lo faccia nelle donne. O questo è solo un retaggio e una diceria? Sì. No, è un dato di fatto epidemiologicamente definito. La frequenza negli uomini è superiore. Allora, non conoscendo definitivamente le cause della malattia, ma avendo solo delle ipotesi, dobbiamo risalire a quelle. Sicuramente le ipotesi di cause della malattia potrebbero essere fattori, esposizione a fattori tossici ambientali, molto spesso di tipo professionale, vediamo pesticidi, solventi, metalli pesanti, e quindi per definizione sono esposizioni lavorative più frequenti negli uomini che nelle donne. Traumatismi cranici, anche questo per attività sportive, per attività invece di altra natura, comunque sono sicuramente più frequenti negli uomini che nelle donne, e quindi una delle spiegazioni potrebbe essere questa, però non possiamo escludere comunque, come si diceva prima, il gene, ovviamente, quindi che un determinato tipo di assetto genetico che riguarda soprattutto il metabolismo di questa sostanza che viene meno, che è la dopamina, che potrebbe rendere quindi più predisposto, che rende di fatto più facilmente aggredibili della malattia, il uomini rispetto alle allora, donne. Allora ci fermiamo un attimo per le informazioni sul traffico. Non è una malattia che colpisce naturalmente solo gli uomini, in prevalenza gli uomini. La dottoressa Volonté ci ha dato la ragione, tra l'altro anche lo stesso dottor Parkinson, il medico che l'ha osservata e descritta in dettaglio, siamo i primi dell'Ottocento, attribuì la causa della malattia alla rivoluzione industriale in Inghilterra e all'inquinamento atmosferico provocato da essa. Al momento comunque, insomma, mi sembra che i fattori ambientali non siano ancora considerati estranei, perché la dottoressa Volonté li ha citati. Ci fermiamo, informazioni sul traffico e ritorniamo subito dopo insieme per la nostra rubrica, ma anche per chiedere alla dottoressa Volonté che ci sono anche delle forme giovanili, quindi giovani uomini all'ascolto, restate con noi. Cuore e denari. Mi muove tremo, abbiamo preso spunto da una lettera che ci ha inviato Luigi, potete andarla a leggere sulle pagine di Salute Uomo per coinvolgere la dottoressa Maria Antonietta Volonté, parlare di tremore e una parola che richiama il Parkinson, ma non tutti i tremori sono segno di Parkinson, una malattia neurodegenerativa che ha delle caratteristiche particolari negli uomini, colpisce naturalmente anche le donne, ma non è una malattia dell'anziano. Poi ci sono anche quelle forme che voi chiamate giovanili, dottoressa Volonté. Sì, sempre ritornando, rifacendoci un pochino alle predisposizioni, alle cause, abbiamo visto l'aspetto così di tossico ambientale, ma non dobbiamo assolutamente ricordare anche l'aspetto genetico. Un 20% delle forme parkinsoniane sono così legate a una predisposizione genetica, quindi qualche altro membro della famiglia affetto dalla malattia, e soprattutto queste forme giovanili, dove per giovanili o ad esordio precoce si intendono le forme che compaiono prima dei classici 60 anni, che è l'età media tipica d'esordio della malattia. Addirittura appunto un paziente su 4 ha un'età di esordio inferiore ai 50 anni, e siccome abbiamo visto che la predisposizione favorisce gli uomini alle donne, quindi abbiamo giovani pazienti parkinsoniani. Allora, dottoressa Volonté, torneremo su questo tema. E possiamo ricordare che sulle pagine del nostro sito web ci sono dei commenti, dei preziosi aiuti di Maria Antonietta che tutti gli ascoltatori possono andare a leggere, che a mio avviso sono particolarmente utili. Dottoressa Volonté, grazie e buona giornata. Grazie a voi, arrivederci. Buongiorno. Allora, noi abbiamo come sempre in chiusura la nostra rubrica Il piccolo grande uomo. Ma volevo leggerti, Andrea, perché tu devi... Allora, la tesi di Leonardo a me, a Deborah è piaciuta, sì, e abbiamo deciso che Leonardo riceve il libro. Però c'è un filone di ascoltatori, uomini naturalmente, che dicono la donna vive di più perché ha le mestruazioni, che hanno un effetto di rinnovare il sangue. E poi aggiungono alcune lo declinano, e perché piangono di più, e perché andiamo in pensione prima, eccetera. Allora, mestruazioni, segreto della longevità? Beh, allora, è un po' semplicistico. Lo so, perdonate però non questo siamo termine. Dutour. No, certo, no, è un po' semplicistico pensare che le mestruazioni in quanto tale siano una forma di rinnovamento del sangue. Hanno Ci un ruolo... piacerebbe, perché sono così noiose che sì, almeno gli diamo una... Sì, però... Se posso dare un giudizio, vi permettono di diventare quella cosa importantissima che siete nella più parte delle cose, delle volte, che si chiama essere mamma. Di base il concetto reale è che non rinnovano il sangue, ovviamente, hanno una funzione legata allo sfaldamento della parete uterina, che si era preparata ad accogliere un Quindi eventuale nascituro. Quindi non è un rinnovamento, è una cosa un po' diversa. Del sangue. Andiamo alla nostra... No, volevo solamente dire che però al pari il fatto delle mestruazioni porta per alcuni elementi al loro perdersi, cioè al momento della menopausa, ad un accrescersi delle problematiche dal punto di vista femminile. L'osteoporosi è uno di questi di cui tantissimo si parla, più al femminile che al maschile. Mi piace solo ricordare che anche i maschietti soffrono di osteoporosi, che fa parte di una di quelle patologie della longevità o della mancanza di longevità che... forse declineremo in un'altra puntata. Perché li vogliamo forti nel corpo, nello spirito e anche nelle ossa. Esatto. Olè. Allora, intanto sentiamo la nostra rubrica, la lettera del piccolo grande uomo, da cui prendiamo spunto. Carissimi, mio padre da bambino mi ha insegnato il gioco del ping pong. Tutto era cominciato quando alla fiera di Ferragosto avevamo visto una racchetta con la gomma di un bel blu come quello dei pavoni. Me ne ero innamorato e papà non poté far altro che comprarmela. A quel punto non si poteva che imparare a giocare. Alla terza estate a Fiumetto non c'era chi mi battesse. Ora, forse vi chiederete perché vi abbia raccontato del gioco del ping pong. Il motivo è semplice. Io e la mia signora sembriamo una pallina bianca di quel bel gioco cinese. Presa un'infezione uno, la passa all'altro. E via, che risolta da un lato, eccotela lì dall'altra parte. Avete forse una soluzione da suggerirci? Grazie, Mino. Questa della pallina da ping pong... Io la trovo piacevole, molto. Sì. Comunque, è molto divertente. Una vita sessuale intensa e attiva e felice, però... Sì. Non per forza di cosa intensa, in realtà quello a cui Mino fa riferimento è un problema non banale ed è legato al fatto che quando parliamo di malattie sessualmente trasmesse di cui non si parla mai abbastanza, intendiamo sempre riferirci ad un soggetto piuttosto che ad un altro, cioè al partner maschile o al partner femminile, piuttosto che a un partner omosessuale. Ma il concetto reale è che di base... Quando si hanno rapporti e la trasmissione avviene, se io vado a trattare, a curare, ad aiutare solo uno dei due all'interno della coppia, ahimè, l'altro ne è sfavorito. Quindi quello che viene generalmente suggerito è che alla terapia, che usualmente è una terapia antibiotica per l'uno, debba corrispondere una terapia per l'altro. Un altro dei suggerimenti che spesso diamo e che vengono misconosciuti è il fatto che l'uso di protezioni e di protezione di barriera, quale ad esempio profilattico, è un buon metodo. Ricordiamo solo che per quanto riguarda ad esempio le infezioni da HPV, di cui tantissimo si è parlato, ricordiamo le vaccinazioni e quant'altro, ahimè l'uso del profilattico non è di per sé bastante, perché va a proteggere banalmente l'infezione a livello dell'asta del pene, ma non va a proteggere ad esempio quella della radice del pene. Quindi sempre un atteggiamento di protezione è da tenere in considerazione. Teniamo anche conto di un altro aspetto. Qui si parla di una coppia stabile, quindi la probabilità di promiscuità in questo senso è relativamente bassa, ma tanto più promiscui sono i rapporti, tanto prima i rapporti vengono ad essere iniziati, tanto maggiore è il rischio proprio di infezioni, ad esempio da HPV o sessualmente trasmesse, che abbiano delle ricadute sulla salute generale tutta dell'individuo. Abbiamo molto detto più marcate. Anche sulla fertilità. Assolutamente sulla Senti, fertilità. Ma per interrompere questo ping pong, che sì. Cosa devono fare una coppia che si ritrova nella situazione di Mino? Beh, la coppia che io mi immagino essere la coppia di Mino è caratterizzata da delle infezioni che sono più banali, quelle che vengono definite da enterobatteriace, le Escherichia coli, che è quella sì, che tutte che la le donne di esatto, più. Perché le cistiti batteriche da Escherichia coli sono estremamente famose. Beh, innanzitutto trattare entrambi i partner è fondamentale e sincerarsi che non esistano dei motivi predisponenti dall'uno o dall'altra parte perché le infezioni ricompaiano. Banalmente le signore che sono tendenzialmente più stitiche di quanto non siano gli uomini hanno maggiore predisposizione. Però da chi va la coppia? Perché l'uomo si va dal medico di famiglia e Hai si ragione. Dice perché la donna, noi donne siamo più portate ad andare dal ginecologo e non possiamo portare il nostro compagno dal ginecologo, dovrebbe andare dall'andrologo, sì però due visite per un ping pong. Da chi andiamo? Un medico dà la cura a tutte e due? Beh, il medico di medicina generale, il medico della famiglia dovrebbe farlo e lo fa. Esatto, secondo me quella è la figura fondamentale. Il ginecologo generalmente tratta la parte femminile, ma non è da escludersi che possa dare una terapia adeguata anche al compagno e viceversa dall'altra parte. È certo vero che chiunque somministri cosa lo faccia sempre a ragion veduta, se possibile alla luce di un antibiogramma, se si tratta di un batterio. Che è quell'esame che ti permette di capire quali antibiotici siano corretti per quel determinato germe in quel determinato momento, tenendo conto che, e questo è fondamentale, non tutte le infezioni sono da batteri, e questo è l'aspetto principale, per cui non tutte sono riconosciute da un semplice esame colturale delle urine, dello sperma, del tampone vaginale, talvolta serve qualcosa di più accurato, primo. E in secondo luogo che non tutte le infezioni debbano essere curate, cioè lo spauracchio di avere delle infezioni che in ogni caso meritino una terapia antibiotica deve essere un po' fugato. Allora, dubbi, domande, perplessità, scriveteci. Intanto io vorrei chiudere in bellezza con Davide dalla provincia di Milano, a cui affidiamo la chiusura. 20 secondi, Davide, vada! Ciao a tutti, buongiorno. E la mia opinione è, siccome tutto quello che è nella mente poi diventa realtà nel corpo, e oggi le persone vivono di più, a mio modo di vedere, perché pensano di vivere di più, quindi sono non stati 30 anni, si sentono 40 anni, eccetera, eccetera. La donna, avendo la maturità, l'esperienza della maternità, è più vicina all'amore. Quando noi amiamo, sospendiamo il tempo. Ecco perché, secondo me, le donne vivono di più, non per il cibo diverso, non per tutte le altre ragioni. Grande Davide, poeta, grazie. Poeta. Un altro libro a Davide. E donne più vicine all'amore, dai, grandissimo. È troppo carino, grazie Davide. Bene, buon weekend, noi torniamo lunedì. Grazie. Andrea, presto. A prestissimo, al prossimo appuntamento con Salute Uomo. Buon weekend a tutti. Buona giornata. E un bacio a Benedetta. Non dico altro.